Freddy nella situazione, hai sentito il mio nome, ti è venuta un'erezione. Non è finzione quando spingo sta roba, hai bisogno di fortuna, cerca di una gobba. È esplosivo come un temporale, non vale, non vale. Se mentre sto per eiaculare vuoi ascoltare le mode menziale, non vale, non vale. Fatti controllare, vale paranoie nelle tue storie. Tiro le cuoie, ma chi ha forza mi attroie. Questa notte è andata pure di lusso, quando parli con me, graciati un musso. Nome shakespeariano, il tuo rap è una tragedia. Col talento gli altri poi fai carriera. Nessuna barriera, nessuna bandiera valica il varco di questa frontiera. Nessuna filosofia, viva al secondo. Intelligenza e pazzia nel mio mondo. Spezza le manette, spezza le catene. Le gabbie sono strette, rima che rosene. Nessuna filosofia, viva al secondo. Intelligenza e pazzia nel mio mondo. Conquista il tuo mondo prima che il mondo ti faccia raschiare il tuo fondo. Bla bla bla, sento troppe storie. Pam pam pam, morti e pistole. Tu villa in posta e polo la costa. Io conto il rosso e sembro il più boss. Vi lagnate, ve la menate. Per 14 anni non sverginate. Preferisco le suicide girl allupate, che mi succhiano il sangue assetate. Dammi il negroni, 2 litri di peroni. Scendo all'inferno e festa nei gironi. Beve dall'imbuto anche Lucifero. Salutami Beatrice che rimango in coma. Ti dico boom, lo sai che balla tua nonna. Boom, dai la cassa rimbomba. Vuoi essere esplosivo? Mangiati una bomba. Artificieri allerta, il mio album che suona. Nessuna filosofia, viva al secondo. Intelligenza e pazzia nel mio mondo. Spezza le manette, spezza le catene. Le gabbie sono strette, rima cherosene. Nessuna filosofia, viva al secondo. Intelligenza e pazzia nel mio mondo. Conquista il tuo mondo prima che il mondo ti faccia raschiare il suo fondo. Adesso vogliono anche i gioielli, le macchine potenti, sti 4 MC deficienti. Negli anni 90 piccoli viziati che giocavano a fare i morti di fame. Ma la fame ormai non fa più figo. Le vostre cazzate le chiudo nella rizza e tiro. Miro alla testa, con la testa scrivo, parlando sempre solo di ciò che vivo. Conoscenza a mano armata e conquistare il mondo. Rivolta tipo intifada prima che affondo. Un secondo e sbagli pure strada. E sei la puttana di un mondo che non paga. Nessuna filosofia, viva al secondo. Intelligenza e pazzia nel mio mondo. Spezza le manette, spezza le catene. Le gabbie sono strette, rima che rosene. Nessuna filosofia, viva al secondo. Intelligenza e pazzia nel mio mondo. Conquista il tuo mondo prima che il mondo ti faccia raschiare il suo di fondo. Nessuna filosofia, viva al secondo. Intelligenza e pazzia nel mio mondo. Spezza le manette, spezza le catene. Le gabbie sono strette, e viva che rosene.